It's quiet, and that's real silence. Wow, it's been a while. Crowd. Ragazzi, che dice? Che possiamo fare? Che cosa volete fare? Sto stanco, però proviamo. Ok, conosci Sting? Thank you. Don't drink coffee, I take tea, my dear.